ma su non fare cose, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. 16:05 in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ad ammazzare cattivi. L'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola come ogni martedì dalle 16 su Radio Onda Rossa. Siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione. 06 49 17 50 se volete parlare con noi. Oggi abbiamo dibattiti interessanti, prima sulla digitalizzazione della didattica e poi sulla la condizione e la progettualità di precari e precarie a scuola, perché domenica scorsa c'è stata un'assemblea nazionale. Domani ci sarà un incontro pubblico alla scuola primaria Iqbal Masik in via Ferraironi 38. Si parlerà di media digitali, didattica, apprendimento e formazione. Siamo in collegamento con un esponente dei COBAS che ci presenta questa iniziativa. Ciao, ci senti? Sì, ciao, vi sento. Sì, in realtà ecco, noi in questa scuola stiamo organizzando nell'Iqbal Masik questa iniziativa, questo dibattito in quanto comitato dei genitori. Sì, infatti non ero incerta su come presentarti, mi sono resa conto di non avertelo chiesto. Sì, sì, no, in realtà appunto io insegno anche nella scuola secondaria, però in questa circostanza ecco, come comitato genitori della scuola abbiamo deciso di organizzare questo incontro pubblico su una tematica che secondo noi è centrale in questo momento, ma lo sarà ancor più nei prossimi anni nella scuola italiana. E se volete vi racconto un attimo l'antefatto, cioè perché ci siamo interessati. Sì, certo, raccontacelo. Ecco, allora, diciamo che la circostanza è stata abbastanza casuale per quanto mi riguarda, almeno perché ho mia figlia che frequenta la prima elementare e nel mese di ottobre, quando ormai le attività erano iniziate, le classi si erano formate, siamo stati informati dalla scuola che la classe di mia figlia era stata individuata per attuare un progetto del Ministero che è chiamato Classi 2.0. Questo progetto si concretizza nel dotare i bambini e le bambine della classe di un computer, di un tablet ciascuno, di attrezzare l'aula con una lavagna interattiva multimediale, le LIM, e poi diciamo che praticamente la didattica sarebbe stata stravolta, modificata profondamente proprio grazie all'introduzione di questi dispositivi digitali. A quel punto come genitori siamo andati ad informare abbiamo avviato un percorso di discussione fra noi, di crescita collettiva su queste tematiche, e ci siamo resi conto che questo non era una proposta che poteva che aveva caratteristiche positive, e per cui abbiamo rifiutato questa compattamente, diciamo all'unanimità come genitori, di far fare di fatto da cavie ai nostri figli, e quindi abbiamo rimandato indietro questo progetto. Dopodiché però l'interesse è aumentato rispetto a questa tematica, e quindi abbiamo deciso come comitato genitori di tutta la scuola di organizzare questo incontro, che per noi può anche essere il primo di una serie di incontri. Perché la voglia di approfondirlo? Perché in realtà abbiamo visto che il Ministero in questi ultimi anni di tagli, che sappiamo bene stanno penalizzando e degradando pesantemente la scuola italiana, decide di qualcuno dice investire, secondo me si tratta più che altro di buttare soldi e di molti soldi, perché parliamo di decine di milioni. Nel Lazio solo per il 2013 il Ministero ha investito oltre 4 milioni di euro su questo progetto Classi 2.0. E quindi diciamo che è un po' la prospettiva in cui si muove, la strategia su cui si muove il Ministero. Strategia che viene ispirata in qualche modo da una teoria chiamata dei nativi digitali, introdotta nel dibattito così intellettuale, culturale nel 2001, secondo cui i ragazzi, i bambini nati dopo la metà degli anni 90 avrebbero ereditato, sarebbero oggetto di una mutazione antropologica, per cui la loro vera lingua madre sarebbe non l'idioma che parlano o nel paese dove nascono, bensì il digitale stesso. E quindi in forza di questa teoria anche l'apprendimento dovrebbe essere veicolato attraverso i sistemi di la tecnologia digitale. Ora, sostituendo ovviamente la didattica tradizionale fatta di rapporto concreto con le persone e con l'ambiente. E questa cosa, al di là la teoria di essere in dubbio se possa essere considerata una teoria su basi scientifiche o piuttosto una trovata di tipo commerciale, di fatto però la cosa a noi lascia abbastanza inebetiti, perché comunque diciamo tutta la pedagogia e tutte le scienze cognitive insomma ci dicono chiaramente che i bambini, soprattutto nell'infanzia, nella prima adolescenza, comunque hanno bisogno di un rapporto concreto proprio per l'apprendimento. Non è qualcosa che diciamo si può sostituire con una realtà virtuale. Anzi, molti studi dicono che invece facendo questo si creano notevoli danni da un punto di vista cognitivo, da un punto di vista anche relazionale, oltre che fisico, perché anche l'impatto sulla salute insomma non è secondario. E quindi abbiamo deciso di approfondire questa tematica. Domani ci sarà questo incontro, ecco. Senti, questo progetto ministeriale è quindi in questo momento alla fase della sperimentazione e riguarda solo la primaria o ha un'articolazione più ampia? Che tu, non so se viene. No, se... allora stiamo parlando di un piano nazionale in realtà, sì. Si chiama Piano Nazionale Scuola Digitale, PNSD, del Ministero, che prende le mosse nel 2009 e è stato applicato soprattutto, cioè a cominciare dalle scuole medie, quindi dalla secondaria di primo grado, con un numero ristretto di scuole. Poi nel 2010 si è allargata la rosa delle scuole partecipanti, coinvolgendo anche le secondarie di secondo grado, e poi successivamente anche le primarie, quindi diciamo che sono coinvolte tutti e tre i gradi di scuola. Per capirci, al di là della diciamo poca scientificità di questa, se vogliamo definirla sperimentazione, c'è il fatto che non sono previste modalità di registrazione dei dati su apprendimento o cose di questo genere. Che in realtà viene previsto dal bando cui le scuole partecipano per accedere ai finanziamenti, che ripeto sono cospicui, siamo nell'ordine di 15.000 euro per ogni classe che partecipa, proprio per dotare la classe di tutti i dispositivi e gli arredi di cui necessita. Quindi nel bando è previsto che la scuola, la classe stessa, comunque monitorata non tanto, ripeto, sugli apprendimenti da un punto di vista scientifico, quanto sulla aderenza che ha la strategia degli insegnanti con quelli che sono i paletti predisposti dal Ministero. E quindi diciamo che appunto di sperimentazione in senso scientifico non si può parlare, sembra quasi che, perché non ci sono studi su dei risultati attesi che si possono ipotizzare, bensì c'è un po' un atteggiamento della serie: buttiamo là questa roba e vediamo che cosa ne esce fuori, ecco. E per questo la questione è molto allarmante, anche perché viene fatto sulle prime classi, quindi immaginiamo bambini che magari ancora devono compiere 6 anni, che sicuramente non sanno leggere e scrivere e che diciamo vedono il loro approccio sul mondo della conoscenza strutturata, dell'educazione, della didattica mediata da dispositivi touchscreen, quindi con la perdita di quella che è tutta la manualità fine del rapporto concreto con la scrittura, insomma sono cose veramente importanti, ecco, nella formazione di un soggetto. Sì, fra l'altro insomma a noi ci è sembrato subito molto interessante questo incontro quando abbiamo visto l'annuncio, perché più volte anche da questi microfoni abbiamo lamentato il fatto che la digitalizzazione della didattica e della scuola viene venduta in maniera propagandistica come modernità in buona sostanza, ma senza che poi dietro ci sia mai stato un reale dibattito tra docenti, per esempio, su, che ne so, sulle LIM o su quanto sia realmente utile essere 24 ore su 24 online, quindi insomma su tanti aspetti della didattica. E questo incontro, a mio parere, insomma, ha il grosso pregio di aprire il dibattito, insomma, di cui noi pensiamo ci sia veramente bisogno. Sì, io se permettete solo qualche altro dato per inquadrare un po' meglio il contorno e il contesto. Prego. Allora, innanzitutto nel progetto del Ministero è previsto che la valutazione dei lavori che poi le scuole coinvolte presenteranno dovranno pubblicare su una piattaforma del MIUR e dell'INDIRE, che è un'agenzia sempre ministeriale, saranno valutati da due enti che se vogliamo non è che siano proprio il massimo della neutralità, e sono la Fondazione Agnelli e la Fondazione Compagnia di San Paolo. Alla faccia. Ecco, quindi diciamo che dietro le quinte si muovono soggetti di questo genere. Inoltre la logica del finanziare una classe per scuola, perché questo è vincolante, e l'intenzione del Ministero di fare in modo che poi queste esperienze possano produrre emulazione sul territorio, secondo me stanno a sorprendere un progetto di questo genere. Noi intanto questi soldi pubblici, perché sono soldi del Ministero dell'Istruzione, quindi sono soldi nostri, lì impieghiamo per comprare dispositivi e quindi fare contente un po' le multinazionali del digitale, da Samsung a tutte quelle che conosciamo, insomma, però Samsung per prima. Dopodiché, quando avremo fatto venire voglia a tutti, perché poi la cosa strana è che nella superficialità, come dicevi tu, nella mancanza di un ragionamento profondo, di un'analisi articolata su queste dinamiche, mediamente il genitore che si vede dotare il proprio figlio di un tablet da usare a scuola per l'apprendimento, così più o meno nella distrazione generale dice: beh, vabbè, bene, è una cosa positiva, e quindi in questo modo tutti vorranno averli, i soldi saranno finiti ed ecco là che hai preparato schiere di clienti pronti ad acquistare, magari anche in periodi di crisi con grossi sacrifici, i tablet per far stare a passo i loro figli con quelli a fianco. Quindi diciamo è un'operazione anche di commercializzazione ben congegnata. E soprattutto, ecco, l'ultimo dato che volevo dare è questo: a Los Angeles hanno speso negli scorsi anni più di $1 miliardo per informatizzare le scuole, e nel giro di poco tempo hanno dovuto ritirare tutto, perché praticamente si sono accorti che tablet e internet l'hanno definite armi di distrazione di massa, e la Corea del Sud, che è il paese dove c'è la maggior diffusione di media digitali nelle scuole, ha svolto un'indagine di tipo ministeriale, quindi del tutto ufficiale, che ha evidenziato che già nel 2010 il 12% degli alunni che avevano questi attrezzi in classe avevano sviluppato dipendenza da internet. Infatti è proprio in questo paese che è stata coniata la definizione di demenza digitale. Quindi ecco, sia chiaro che noi non siamo contro la tecnologia, questo mi sembra anche superfluo sottolinearlo, stiamo parlando da una radio, da un telefono, quindi non ha neanche senso parlare di essere contro. Anche in streaming fra l'altro ci possono ascoltare, quindi insomma proprio luddisti quindi, non siamo. Siamo al di sopra di ogni sospetto, quindi il problema vero che poniamo è se queste tecnologie digitali debbano fare il loro massiccio ingresso all'interno della scuola, della didattica, soprattutto per bambini insomma che hanno questa età della scuola primaria e della scuola primaria e della scuola media. È un punto aperto, è un interrogativo, quindi noi non vogliamo dare delle conclusioni perché tra l'altro non ne siamo all'altezza. Abbiamo invitato Roberto Casati a parlare domani, è un filosofo del linguaggio che è direttore di ricerca al CNRS di Parigi, cioè l'equivalente del CNR italiano, e insegna scienze cognitive, diciamo ha un'esperienza, ha scritto un libro che è molto diffuso, si chiama Contro il colonialismo digitale, istruzioni per continuare a leggere. C'è un vivace dibattito che si è sviluppato su dei siti di intellettuali. Vorremmo provare a calare questo dibattito tra la gente comune come noi siamo, insomma, e quindi magari capirne di più, e per questo insomma chi volesse approfondire domani è anche ben siamo ben lieti di ospitarlo alla nostra scuola. Vuoi ricordarci luogo e ora dell'incontro? Sì, allora si terrà domani alle 17 presso la scuola Iqbal Masih, che si trova nei pressi di Centocelle, in via Ferreironi al numero 38, il quartiere Casilino 23, vicino Villa De Santis, per chi volesse avere un po' di riferimenti topografici. Bene, se ci hai detto tutto, noi ti salutiamo e diamo appuntamento a tutti e a tutte a domani all'Iqbal Masih. Va bene, penso che possa essere l'occasione, come dicevi tu, per aprire una discussione che manca e che invece dovrebbe coinvolgere forse un po' tutte le scuole, tutti gli interessati che a Roma si occupano di educazione, di didattica, i genitori che hanno dei figli e quindi magari vogliono capire meglio che rapporto avere anche con questi aggeggi, con questi gadget che ormai popolano la nostra vita insomma ogni momento. Cercheremo insomma di riparlarne anche da questi microfoni. Per il momento ti ringraziamo. Grazie a voi come sempre. Alla prossima. Ok, ciao. A presto, ciao. E volerò, ti cercherò come Mercurio. Arriverò vicino a te nella tua radio. Le antenne poi, le onde azzurre del Mediterraneo. Da Roma sì, all'Olimpo e su, in volo Hollywood. Giove sul computer sono sempre lì, dorata del petrolio vero lo aspetterà. Hotel Mediterraneo c'è un messaggio, la grande novità. Automatic kids e crescono e vincono gli automatic kids, si cercano, si aiutano, si comprano, il mondo sai adesso già assomiglia a te, puoi vivere il tempo delle macchine, ormai è qui la macchina del tempo, poi ti porterà. Futuro ti spaventa, non puoi più farci niente, ormai è qui. Noi siamo così. Opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera, opera diventa un videogame. Videogame. L'Europa là, Vivaldi sì, un melodramma. Arlecchino e Figaro e Mozart, l'orchestra degli dei. Linguaggio della macchina è facile, didattico, sintetico, più semplice. Devi aver paura, gioca, gioca, perché se perdi non fermarti mai. E noi siamo così. I neonati nel nuovo millennio li si usa a chiamare nativi digitali. La sorte dei nativi in molti continenti è stata segnata da colonizzazioni violente e distruttive, giustificate in nome della civiltà e del progresso. Evitiamo che anche i nostri piccoli nativi siano colonizzati precocemente e pervasivamente da tecnologie che nei primi anni impoveriscono la vita e l'immaginario infantile. Così termina la lettera appello di Franco Lorenzoni, che è stato ospite un mese fa e che lui ha indirizzato un anno fa al Ministero pubblicamente e ha avuto delle risposte piuttosto blande. E il dibattito ovvero è stato lanciato e forse avviato, ma è nel caso di raccoglierlo e partecipare anche alle iniziative di cui abbiamo parlato poco fa. Comunque io mi sento di dire che sicuramente, come ha detto anche il compagno al telefono, è un'operazione assolutamente commerciale. Non vedo quale altro significato, ma non tanto per le cose che abbiamo abbastanza approfondito oggi, ma per il fatto che qui lo slogan principale del Ministero e del Governo è che la coperta è corta, quindi non si capisce perché ci sia questa impellenza, questa necessità assoluta adesso di lanciarsi in questo progetto di digitalizzazione, eccetera. Fra l'altro non so nemmeno quanto i docenti e le docenti siano preparati e preparate, insomma, per gestire, ma non tanto a livello proprio di accendere il computer e usare la tastiera, ma proprio anche mentalmente, no? Perché insomma posso dire che anche per tutta la digitalizzazione della parte diciamo di gestione della scuola, quindi dal lavoro d'ufficio fino a tutte le incombenze che adesso si fanno sempre online, tipo pensioni, trasferimenti, eccetera, insomma siamo ancora un po' indietro, direi ampiamente. Quindi mi sento di ribadire assolutamente questo concetto. Fra l'altro si dice che questa cosa è importante perché altrimenti i bambini e le bambine si troverebbero magari in quei casi in cui non, a casa non hanno un accesso al computer o comunque non ce l'hanno sufficiente, proprio qui sarebbe da discutere, e si troverebbero insomma svantaggiati e svantaggiate. Io questo non lo so, però insomma già è difficile da parte di un genitore che mette a disposizione dei figli il computer, insomma arginare pure l'uso smodato di questo oggetto, e quindi insomma non lo so quanto poi questo possa servire didatticamente. Del resto è anche un'epoca in cui spesso si sente dire insomma che non si sanno fare nemmeno più le divisioni a mano, non si sa scrivere, se vai a comprare un francobollo al tabaccaio ti guarda strano, no? Perché mo che ce devi fare col francobollo? Per cui si è perso proprio, cioè una volta si insegnava a scrivere, per cui poi lo facevi o non lo facevi, insomma si insegnava a scrivere. Adesso sembra che sia qualcosa che comunque va a prescindere da poi dalle considerazioni che facevamo ovviamente sul rapporto, perché si potrebbe dire vabbè, ma tu c'hai il tablet però c'hai il rapporto con l'insegnante, no, tu c'hai il rapporto col tablet e poi magari ce l'hai con l'insegnante, che a quel punto con quello che dicevamo non è chiaro. Già adesso per esempio la famosa ricerca che ci terrorizzava quando eravamo giovani, però ci dava anche modo di ragionare, insomma, di andare in giro, le famose enciclopedie, eccetera. voglio dire, non siamo luddisti come diceva la compagna, ci mancherebbe altro, però bisogna anche imparare a usarli questi mezzi, a capire che non è tutto oro colato quello che arriva da internet, anzi tutt'altro, invece spesso viene gestito come tale. Cioè, una volta si diceva, mia madre diceva, l'ha detto la televisione, no? Ipse dixit, adesso sì, l'ha detto internet, l'ha detto Wikipedia, sì, ma non è così, insomma. Non siamo neanche passatisti, cioè non diciamo che il computer non servono, non li vogliamo usare, che internet a scuola saremmo non la vogliamo usare, anzi molti di noi insomma lo usano in tanti modi. È la propaganda modernista che innanzitutto dietro, come abbiamo detto, insomma nasconde altre cose, perché dove c'è la Fondazione Agnelli è evidente ci stanno indirizzi d'altro tipo, interessi d'altro tipo, ma non solo la Fondazione Agnelli, insomma. Diciamo che di fatto non lo sappiamo come, quanto, in che modo la didattica può essere cambiata attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Sono cose che vanno costruite. Sì, no, infatti il ragionamento è proprio questo, cioè che prima di avviare una sperimentazione in una fase così delicata come l'apprendimento della lettura, della scrittura, proprio dei primi rudimenti di quella che è poi l'affermazione nel mondo della conoscenza ordinata, come diceva chi ha parlato prima al telefono, ci sarebbe necessità di una riflessione che coinvolga il mondo della scuola e in qualche modo il mondo degli specialisti e che vengano strutturate anche strutturati i passi attraverso cui si può eventualmente arrivare a un apprendimento digitale dei primi elementi. Di tutto questo non c'è traccia. Quello che vediamo è in qualche modo un tentativo di imporre determinati strumenti senza che ne venga valutato il modo d'uso. Fra l'altro, sì, ma anche senza che voglio dire che venga data una progettualità reale. Io non ho presente questo progetto nello specifico, ho presente l'ingresso della LIM nelle scuole. In tutte le scuole superiori sono state messe queste lavagne, è stato deciso dal ministero, perché nessuno l'ha chieste, sono state messe in tutte le scuole, di fatto non è che dietro a questo poi c'è qualcosa che si è stabilito come utilizzarla, c'è una formazione, cioè, e quindi evidentemente sono stati dati tanti soldi a chi le ha prodotte. No, assolutamente. Dal mio punto di vista la LIM è comunque uno strumento che si rivolge nelle scuole superiori a ragazzi grandi che dovrebbero avere almeno gli strumenti di base strutturati in un modo o in un altro, e questo è tanto peggiore quanto si rivolge a ragazzi, a bambini di prima elementare, ecco. Non solo, peraltro si spaccia tutto questo come una miglior, forse più rapido, un apprendimento più rapido, e quindi dietro a questo c'è anche l'idea che la didattica fatta attraverso tablet, computer eccetera possa accocciarsi nei tempi, e per esempio no, 5 anni di liceo possono diventare 4, certo. Oppure, sì, oppure sì. Perché magicamente un'ora diventa di laboratorio, vai dentro a una sala o dentro un'aula dove c'è una LIM, basta una LIM che ecco lì che magicamente che sì, puoi fare a meno di un anno di approfondimento e di lentezza, no? L'elogio della lentezza dello studio spazzato via con questa idea della modernità. Direi che con questo argomento a questo punto possiamo chiudere, ancora qualche minuto di musica e poi passiamo invece a parlare di cosa è successo domenica scorsa all'Assemblea Nazionale dei Precari e delle Precarie della Scuola. Change my world. across the universe. Floats meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo, David. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Torniamo in voce, 87.9 di Radio Onda Rossa, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e parliamo adesso con coordinamento precari della scuola, perché appunto domenica scorsa c'è stata un'assemblea. Pronto, ci senti? Sì, sì, vi sento. Anche, ciao, anche noi forte e chiaro. Ci racconti un po' l'assemblea? Allora, dunque... L'assemblea, insomma, come forse avete detto, è stata un'assemblea nazionale e vabbè, la cosa, insomma, che mi sembra interessante è che c'è stata una partecipazione, direi, abbastanza consistente, specialmente per i tempi. Io, insomma, non me l'aspettavo, io sono di Roma, non me l'aspettavo, insomma, c'erano un po' delegazioni, un po' da varie città, insomma, d'Italia, quasi direi dalle più importanti d'Italia, di docenti precari. E, insomma, al di là di cose, insomma, organizzative nostre della rete dei precari, su cui non insisterei perché non vi interessano più di tanto, noi, insomma, vorrei un attimo parlare delle iniziative, se vi certo. Interessa, ecco. E noi abbiamo, diciamo, ci siamo concentrati in particolare per la primavera che viene sulla questione delle ferie non godute. Non so se gli ascoltatori sanno questa questione. Ne abbiamo parlato, però riaccennalo velocemente. Noi comunque ce ne siamo occupati. Sì, dunque, la questione delle ferie non godute è questa. Insomma, tutti gli insegnanti, ecco, maturano, è un diritto come tutti quanti i lavoratori, a un certo numero di giorni di ferie ogni settimana, diciamo, che si lavora, si maturano questi giorni di ferie, che alla fine sono, mi sembra, 31 o 32 in un anno di lavoro. E gli insegnanti di ruolo prendono queste ferie, quindi gli insegnanti a tempo indeterminato prendono queste ferie durante il mese estivo, cioè durante agosto. Come, insomma, penso che gli ascoltatori sanno, noi precari non abbiamo, la maggior parte di noi, ma poi ce ne sono alcuni che lo hanno, però la maggior parte di noi hanno un contratto che scade alla fine dell'attività scolastica, cioè a giugno. Noi, diciamo, l'ultimo mese in cui prendiamo stipendio è giugno. Quindi noi non abbiamo, diciamo, noi maturiamo queste ferie, però non abbiamo la possibilità proprio di goderle, perché d'estate non siamo più in servizio, sostanzialmente. Allora, che cosa avveniva? Negli anni passati il Ministero ci dava cioè monetizzava, come si dice in termini, diciamo, tecnici, queste ferie che noi non godevamo, ecco, che erano un migliaio di euro che ti venivano dati durante i mesi estivi, che sono per noi, insomma, come potete immaginare, un po' i mesi un po' più duri, no? Cioè quelli di luglio-agosto, in cui la maggior parte di noi sta senza stipendio. Tutti quanti noi facciamo la richiesta dell'assegno di disoccupazione, che però viene regolarmente versato dopo l'estate, in realtà, per le lentezze burocratiche dell'INPS. Io, che ne so, quest'anno l'ho ricevuto a ottobre. E quindi niente, il governo ha deciso di non, diciamo, stabilito che non si possono più monetizzare le ferie non godute. Quindi noi dovremmo, sostanzialmente, la questione è questa, cioè il governo vorrebbe costringerci, cioè nel senso spingere i presidi a farci prendere le ferie durante il periodo in cui la scuola è chiusa, quindi Natale e Pasqua, o se no niente, finita lì, cioè nel senso che poi la monetizzazione non è possibile. E in realtà, ecco, no? Noi non possiamo di fatto godere queste ferie durante l'anno scolastico, cioè è fuori discussione questa cosa, nel senso che beh, piuttosto complesso ed è appunto, diciamo, quasi sostanzialmente impossibile poterle prendere durante l'anno scolastico, cioè andarsene in ferie per 20 giorni durante l'anno scolastico è assolutamente impossibile, ovviamente. E quindi ecco, questo è un po' il quadro. Mi seguite? Sì, certo. Pronto? certo, okay. Seguiamo. Okay. Vai. E quindi insomma, no, questa quindi, è l'iniziativa, è il motivo insomma di iniziative questa a primavera. Sì, e l'iniziativa che noi abbiamo pensato è questa, che appunto il 21 marzo di prossimo, diciamo, tutte quante le varie organizzazioni dei precari, ovviamente avendo preparato un po' il terreno prima, diciamo, tutti quanti i partecipanti a questa protesta precari chiederanno un giorno di ferie il 21 marzo, quindi una specie, diciamo, di sciopero, non è un vero e proprio sciopero, ma di, come dire, di iniziativa che vuole appunto segnalare questa cosa. Il nostro obiettivo un po' è quello, da una parte, di denunciare questa questione, cioè di questa cosa della, come vi dicevo appunto, di questa, così, questa decisione presa dal governo, che per noi è piuttosto lesiva, insomma. E dall'altra parte è pure l'idea di segnalare appunto la presenza di noi lavoratori precari dentro la scuola, che insomma, come penso gli ascoltatori sanno, siamo una percentuale piuttosto ampia degli insegnanti, e sostanzialmente insomma, grazie al lavoro di questi insegnanti precari, la scuola va avanti, insomma, diciamo che il diritto di studio è garantito alle giovani generazioni, ecco. Quindi l'obiettivo è quello di, come dire, di creare un po' questo caso in cui lo stesso giorno chiederemo tutti quanti un giorno di ferie alle scuole. Chi imposta dentro le segreterie delle scuole sa benissimo che poi le ferie vanno richieste e il dirigente scolastico, il preside, le deve concedere. Quindi insomma, immaginiamo che nel momento in cui arriveranno 6, 7, 8 domande per ogni scuola di ferie, chiaramente si creerà un po' un caso, insomma, ecco, questo è un po' lo scopo che noi ci poniamo, ecco. E quindi insomma, questo sarà l'argomento, è stato, diciamo, l'argomento primario. Poi oltre a questo avete discusso, sì, altre, prego. Sì, guardate, la successiva, la nostra tabella insomma di mobilitazioni appunto prevede questa come primo iniziativa un po' grossa che come movimento dei precari portiamo avanti. E l'altra cosa è la questione, cioè diciamo che questa iniziativa poi preluderà, ecco, a uno sciopero che dovrebbe essere appunto uno sciopero che ha sempre, come possiamo dire, al proprio centro la questione del precariato, che noi abbiamo fissato per l'11 aprile, cioè erano presenti pure dei sindacati che hanno in qualche modo preso l'impegno di indirlo, cioè l'UCI da una parte e la CUB dall'altra. E ugualmente appunto sulle questioni del precariato, però ecco, in questo caso un po' allargato a tutte quante le componenti della scuola, quindi ovviamente anche gli insegnanti di ruolo, al personale ATA, ecco, uno sciopero della scuola, però preparato da questa iniziativa insomma precedente. Ecco, questa è un po' la questione su cui noi volevamo un po' rilanciare, ecco, la mobilitazione dei precari. Poi non so se volete che appunto entro un po' nel dettaglio delle questioni che un po' ci interessano, ecco. Sì, cioè, ovviamente a noi interessa, e ti volevo anche fare una domanda generale, diciamo. Sì. So se, nel senso, non so se ne avete discusso, perché insomma noi a volte l'abbiamo un po' accennato da questi microfoni, il fatto che quest'anno scolastico è un anno scolastico che è difficile definire caldo per quando tu definisci le mobilitazioni, nel senso che in molte delle scuole in cui lavoriamo c'è abbastanza calma piatta, pure gli studenti si sono sentiti poco, a parte insomma un po' di giorni di occupazione che ci sono stati, ma come mobilitazione abbiamo visto poco. E quindi voi adesso rilanciate iniziative grazie anche a questa assemblea in un panorama un po' asfittico, insomma, a noi sembra. Non so se di questo avete discusso e se avete delle idee in merito sulle motivazioni e anche su come rilanciare le lotte. Sì. Sì, beh, questo, dunque, guarda, di questa questione non, diciamo, direttamente non abbiamo discusso, diciamo, almeno non in questi termini. Sicuramente, appunto, come dicevi tu, la fase attuale nella scuola è appunto una fase di, sì, come dicevi tu, di calma piatta. Appunto, mi sembra, insomma, così un po' dovuta in particolare a una serie di, così, di manovre e di problematiche, insomma, che così che hanno un po', non so come dire, sì, creato un po' questa situazione. Voi vi ricorderete, insomma, l'anno scorso la grande, ultima grande mobilitazione è stata quella sulla, contro l'innalzamento dell'orario di lavoro. E certo. Dopodiché, appunto, cioè le questioni, diciamo, la mobilitazione si è bloccata per quanto riguarda gli insegnanti, ecco. Quindi, appunto, infatti, come dicevo, l'assemblea invece ieri domenica, appunto, è andata molto bene, quindi questa cosa, insomma, ha colpito anche me, cosa che, appunto, insomma, segnala anche una volontà di, così, di mobilitazione da parte dei precari. Voi sapete che, insomma, il movimento dei precari, diciamo, ci ha avuto una sua crescita, insomma, dopo i tagli della Gelmini, poi è stato molto strattonato, cioè nel senso che comunque i precari, diciamo, fino a qualche anno fa erano soltanto gli insegnanti che stavano nelle graduatorie, adesso ci sono varie figure come quelle del TFA, del PAS, è stato fatto un concorso, insomma, quindi, come possiamo dire, il governo si è molto impegnato per frantumare la categoria, ecco, questo quindi è un, diciamo, un problema, un panorama nuovo. Noi sì, anche per mettervi sempre l'uno contro l'altro, insomma, sì, chi ha fatto il concorso rispetto a chi invece ha fatto il TFA, insomma, esatto. Eccetera eccetera. Esatto, sì, questo sicuramente ha messo, cioè nel senso che nella prima parte, nella prima fase della mobilitazione, almeno a cui ho partecipato io, immediatamente dopo il 2008, in cui appunto eravamo tutti qua, la maggior parte di noi, diciamo, erano della SIS, stavamo nelle graduatorie e combattevamo contro i tagli che ci impedivano di entrare di ruolo, a moltissimi di noi hanno impedito proprio direttamente di lavorare. Su questo quadro il governo ha lavorato molto negli ultimi anni, cioè nel senso che, appunto, il problema delle graduatorie non è stato assolutamente risolto, i tagli stanno tutti quanti là, in più sono state abilitate moltissime altre persone con altri percorsi di reclutamento, insomma, facendo un po' perno ovviamente sul legittimo desiderio di avere la strada aperta all'insegnamento da parte di nuove generazioni di laureati, ovviamente. E quindi, ecco, questo, insomma, mi sembra che è una categoria più divisa. Noi, una cosa che mi ha colpito dell'assemblea di domenica è che c'erano, appunto, sicuramente il numero molto minore rispetto a noi abilitati con la SIS, però c'erano anche alcuni abilitati con il TFA. Insomma, che significa, ecco, che così, insomma, che si può anche tentare un percorso insieme, insomma, perché poi il problema del precariato, sai, è il problema dei tagli alla scuola, sostanzialmente, della demolizione della scuola pubblica. Chiunque lavora nella scuola pubblica sa benissimo che la scuola sta vivendo proprio sulle forze, veramente quasi, io direi, sul volontariato, sull'abnegazione di alcuni insegnanti che tirano avanti la carretta, ma in condizioni, secondo me, allucinanti, insomma. Direi che in effetti rispetto anche a questa mobilitazione di cui ci ha parlato sulla questione delle ferie, un po' dall'anno scorso si gioca di rimessa, no? Nel senso che arriva la questione delle 24 ore, che noi, insomma, anche da questi microfoni giudichiamo abbastanza strumentale, tant'è vero che poi è rientrata grande mobilitazione, ma sempre, appunto, come risposta a un attacco ulteriore, come se non ci fossero sufficienti motivazioni per partire, insomma, noi all'attacco. Poi arriva questa cosa delle ferie che è veramente allucinante. Tra l'altro, insomma, si è risolta molto molto tardi, io sto in segreteria, quindi ribadiamo, perché magari qualcuno non l'ha capito, che non è che il docente o la docente fa domanda di ferie, d'ufficio così viene messo in ferie quest'anno dal 1° gennaio, quindi perché vengono considerate ferie le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua, i ponti eventuali a livello regionale o scolastico e le chiusure per i seggi elettorali. Allora chi ci ascolta deve capire che a questo punto spesso succede che in realtà tu avresti preso pure più ferie di quelle che avevi maturato, no? Per assurdo, e che dall'anno prossimo invece verranno contate dall'inizio delle vacanze di Natale, quindi compresi i ponti che ci saranno, magari che ci sono stati a novembre, parlo anno prossimo, cioè quest'anno, scusa, quest'anno scolastico, e quindi la situazione, magari chi per un motivo o per l'altro è riuscito a racimolare il pagamento di qualche giorno di ferie probabilmente non lo avrà, insomma. E poi un'altra considerazione è quella appunto sui tagli e la questione che ovviamente l'attacco alla possibilità di andare in pensione è strettamente connesso con questo discorso, certo, dei tagli. Cioè bastavano i tagli da soli, però certamente, quindi questo potrebbe essere, insomma, un momento in cui si dovrebbe trovare un'unità d'azione, insomma, per interessi comuni, però diciamo che purtroppo questo ancora non si vede nelle scuole. È vero quello che tu dici, che siamo a livello di volontariato, io mi sento di dirlo tranquillamente per tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici della scuola, perché consideriamo per esempio l'ultima buffonata della famosa restituzione degli scatti maturati nel 2013, che adesso è rientrata e sembra rientrata, ma insomma qualcuno, lo diciamo, si troverà comunque la trattenuta che dovrebbe essere contestualmente rimessa con un mandato speciale del Ministero del Tesoro, e però i soldi per mettere una pezza a questa cosa si prenderanno ancora una volta dal fondo d'istituto che va a finanziare, insomma, cose anche serie, voglio dire, non è che sono tutte cavolate, ci sono anche impegni di lavoro assolutamente necessari sia da parte del corpo insegnante che del personale ATA. Certo, sì, no, sono d'accordo, ma non sono per niente cose, appunto, insomma, spesso si pensa al fondo d'istituto come semplicemente appunto al finanziatore dei progettini, ma nel senso che non è così. Cioè, io vi faccio soltanto un esempio, sono coordinatore insieme alla scuola superiore, sono coordinatore di una classe. Come tutti quanti coordinatori, il coordinatore non ci può non stare, no? Diciamoci la verità, cioè nel senso che ci vuole qualcuno che deve appunto seguire le questioni, tenere insieme i vari insegnanti. Poi tenete conto che adesso con gli alunni con disabilità non certificati dalla 104, chi elabora il piano didattico personalizzato è il coordinatore, poi sostanzialmente, sulla base delle indicazioni dei colleghi. Il coordinatore fa sempre più lavoro. E la cosa che mi ha colpito è che probabilmente nel liceo dove sto non si sa se si trovano i soldi per pagare i coordinatori. Cioè, questo significa che il lavoro che io sto facendo come coordinatore, che quest'anno per quanto mi riguarda è più intenso degli altri anni, appunto, anche per le questioni, chiamiamole così, della disabilità, probabilmente non verrà pagato. E quel lavoro ci deve stare, cioè nel senso che appunto di fatto diventa un lavoro volontario. E quindi ecco un po' questo, mi sembra, cioè c'è un grossissimo problema dei tagli e poi appunto, sì, come dicevi, in realtà tutte le varie iniziative che sono state prese e che verranno prese, perché tenete conto che anche questa questione dei 4 anni, no? Del liceo a 4 anni, cioè in realtà mi sembra che di fondo c'ha questa radice, cioè, nel senso, se tu vai a vedere un po' le interviste del ministro, cioè, allora alla fine la cosa viene fuori che con il liceo a 4 anni si può risparmiare, cioè nel senso non... Sì, sì, no, è evidente che questo è il motivo, insomma, noi ne abbiamo anche parlato a lungo, ma... Capito? Ci sembra che il ragionamento sia quello, 40.000 cattedre meno e tutto quello che costa meno, insomma. Esatto, esattamente, quindi insomma questa è un po' la questione, cioè nel senso che appunto pure qui rispetto al precariato... E abbiamo perso la linea, comunque siamo anche in fine di trasmissione, andiamo non so se il compagno vorrà intervenire, intanto due note musicali. Mi sono rotto, io mi sono rotto. non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tu, aspetto ancora fine mese e poi mi rimetto, tanto il mio lavoro inutile, diciamo futile, essenzialmente rimovibile, sostituibile, regolarmente ricattabile, il mio lavoro è bello come un calcio all'inguine dato da un toro. Il mio lavoro è roba piccola fatta di plastica che piano piano mi modifica, mi ruba l'anima, dice lavoro rende nobili, non so può darsi, sicuramente rende liberi di suicidarsi. E io mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto. Aspetto ancora fine mese, poi mi dimetto. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. Precario il mondo. Siamo evidentemente in chiusura di trasmissione, evidentemente nel senso che sono le 16:55 minuti, quindi tra 5 minuti andrà in onda il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ancora non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, il compagno ovviamente del coordinamento Precari, lo risentiremo prossimamente, insomma, per entrare nel vivo di queste iniziative. Lo salutiamo e lo ringraziamo anche, insomma, se non al telefono. No, dico un'altra volta quello che ho sempre detto quando si è parlato di retribuzione delle ferie non godute da parte dei precari: c'è un collegamento stretto tra la riduzione del FIS e la possibilità, che secondo me prima o poi emergerà, di far lavorare gli insegnanti di ruolo in quel periodo di tempo in cui molti di loro non lavorano o lavorano retribuiti dal FIS, cioè sostanzialmente a luglio, quando molti fanno corsi di recupero retribuiti dal FIS e sostanzialmente non fanno la didattica ordinaria, quella della mattina, perché la scuola è finita. Quindi ripeto, anche rispetto alle iniziative dei colleghi precari, ci dovrebbe essere un'attenzione da parte del personale di ruolo, perché alla lunga distanza, ma non tanto lunga per come vanno le cose, e questa cosa coinvolgerà secondo me anche gli insegnanti di ruolo. Sì, e peraltro anche l'idea del fondo d'istituto forse è al tramonto, visto che da lì attingono sempre tutte le risorse per, in questo caso, pagare gli scatti di anzianità, e dunque, come dire, anche se nessuno ufficializza ancora, come dire, il decesso, però il funerale è pronto, quindi bisognerà inventarsi qualcos'altro. Peraltro mi pare che dopodomani addirittura la mobilitazione è dei dirigenti scolastici, che annunciano un sit-in al ministero perché anche loro vengono pagati troppo poco, non pagati. Quindi chi dei dirigenti sta ascoltando, tutti davanti al ministero. Sì, e soprattutto che si vergognassero, io non per dire, però guadagnano almeno il triplo di quello che guadagna un insegnante. Vabbè, sì. Detto questo, l'ora di buco vi saluta e vi dà appuntamento a martedì prossimo.